più salario meno orario, più salario meno orario, più trattenuti al signor Milan, più salario meno orario. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, a una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan a chiudere questa settimana, venerdì 5 giugno, giorno in cui chiudono anche le scuole, ultimo giorno di scuola, ultimo giorno di scuola. È incredibile, scuola raffazzonata quest'anno, ma ci siamo arrivati. Allora, siamo qui con l'Alpino in regia, la nostra redazione, c'è Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, c'è la nostra Laura Faggino oggi che ci aiuterà insieme all'Alpino, e c'è, signori, l'avevamo detto, la doppietta settimanale, tattac 1-2, come farà il Milan venerdì prossimo nella semifinale di Coppa Italia con la Juve, e sarà finale, tattac 1-2. Sì, però anche, e vabbè, c'è Mario Calabresi, eccolo qua. Buongiorno, Mario, cioè, ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Ti faccio notare mi spiace contraddirla regia, subito, sì. Signor Milan, ecco. Ma le scuole oggi non in tutta Italia finiscono le scuole. Certo. Infatti io guardavo al mio ombelico. A Milano, tu guardavi i tuoi figli. Sì, sì, esatto. In altri posti chiudono mercoledì, in altri posti giovedì, prossimo. Ma io, vedi, invece ti volevo far notare, vedi, quando ho detto tac tac la doppietta, cioè l'Alpino che ha fatto partire la risata, è milanista come me, ma siamo talmente rassegnati e auto. No, ma passate i bravi, su. Io volevo subito provocarti, su, tu juventino, va bene, comunque. C'è Mario Calabresi con noi per questo venerdì. Guarda che abbiamo tante cose da dire oggi, eh? Avremo ospite Silvio Garattini, abbiamo ospite tante altre persone, siamo qua fino alle 11. Ah, ecco, faccio notare, io in diretta video su Facebook, come si può vedere, non è un grande spettacolo, ma ci sono, Leonardo Manera non ancora e Mario Calabresi neanche, quindi insomma sono io solo a mantenere alto l'onore qui del video su Facebook. Tu saresti stato disposto, Mario, se ti avessimo... Non me l'hai mai chiesto, ma sì. Se raddoppi il caffè, vengo volentieri anche in video. Ecco, va bene. Vai, Alpino! Vai. Enthusiasm about the future. Oh, questo entusiasmo, lo so che ti entusiasma anche quello su cui voglio stuzzicarti, caro Mario, lo so, guarda, anche a me le crisi politiche o quello che succede nei palazzi romani della politica non interessano molto, anzi per niente, lo so che anche tu che hai vissuto a Roma non sei appassionato. Da ieri però leggo e leggerò anche oggi a spizzichi e bocconi questo libro, Io sono il potere, che ti consiglio se non lo hai fatto. Se non l'hai letto, sono le confessioni di un capo di gabinetto. È in anonimo, sono le confessioni di un capo di gabinetto. È uscito per Feltrinelli e racconta in maniera incredibile dall'interno, ti fa venire un po' di acidità di stomaco, secondo me, se lo leggi. Però è abbastanza incredibile come funziona la burocrazia dei ministeri, che vedono passare i ministri e rimangono lì a tramare e a detenere il potere. Comunque ti volevo chiedere questa cosa di Conte, la svolta di Conte. Ti piace intanto il nuovo movimento possibile? Conte. No, basta. È molto in movimento. il Presidente del Consiglio è molto in movimento. E c'è questa ipotesi che si possa candidare al Senato a novembre in un collegio che era dei 5 Stelle, che è rimasto vuoto in Sardegna, sì. E io questa penso che non la troverei una cattiva idea. Uno che dice io non sono parlamentare, passo anch'io dalle urne, non è una cosa così balzana. Spesso non è stato eletto, anche se il sistema, sì, lo sappiamo. Certo, deve essere sicuro di farcela, perché se perdesse sarebbe una cosa tragica. Sì. Sarebbe come David Cameron che si è cercato il referendum che nessuno gli aveva chiesto. E sappiamo com'è finita con la Brexit. Però da questo punto di vista è una buona idea. L'idea invece del partito personale, io trovo sempre queste idee un po' fantascientifiche, surreali, e poi... E sono figlie quando ci sono, poi bisogna vedere se realmente Conte lo pensa o sono chiacchiere, gli vengono attribuite, magari un giorno dice una battuta, sono anche tante cose da capire. Il punto qual è? Bisogna ricordarsi per esempio Mario Monti. Mario Monti ha avuto un momento che aveva una popolarità incredibile, poi ha pensato a questo punto la monetizzo facendomi il partito e lì è stata la sua fine. Esatto. E c'è un dato però, quando uno è a Palazzo Chigi perde la percezione della realtà, perché Palazzo Chigi, capito, rispondi alla Merkel, chiami Trump, vai ai vertici, scattano tutti sull'attenti e ti dà l'idea di un consenso che sia che sarà poi granitico, quando invece poi le cose noi vediamo che hanno delle fluttuazioni, per cui tu passi dall'alto al basso. Pensa a cosa è successo a Renzi, citavamo, o le parabole di Berlusconi. Ma io negli anni ne ho fatte tante, le ho intervistati tutti i presidenti del Consiglio a Palazzo Chigi, e mi hanno colpito come se tu li incontri prima, durante e dopo siano tre persone diverse. È tinebria quella cosa lì, è inutile, ti innamori, ti cambia, ti... Ma che cosa ti cambia? Perché c'hai, adesso lo dico in maniera brutale, perché di colpo diventi uno che vieni riverito attorno a una serie di questuanti che ti dicono, oppure di persone che ti dicono bravo, dottore, presidente, ti riveriscono. Cioè quello è, cioè, diciamo, il narcisismo. Così. Il narcisismo, ma anche la sensazione che... la sensazione che fai la differenza, che stai nella stanza dei bottoni. E quindi ogni cosa che dici tutti la commentano, tutti ne parlano. Prendi Donald Trump. Donald Trump in un certo senso aveva avuto la ricchezza e aveva già la popolarità. Il punto è che lì fa la differenza. Donald Trump, pur di rimanere alla Casa Bianca, farà la qualunque, perché, perché un posto così non esiste un altro. Naturalmente Palazzo Chigi non è la Casa Bianca, ma però per l'Italia è il luogo dove prendi le decisioni. E però, quindi però magari, io credo che questo veramente faccia... Guarda, l'unica persona che ho incontrato che prima, durante e dopo era uguale è stato Enrico Letta. Cioè Enrico Letta a Palazzo Chigi non si era montato la testa, forse è per questo che l'hanno fatto fuori in fretta. Ecco, vedi il famoso stai sereno. Allora, però magari Conte punta alla Casa Bianca, no scherzo, però perché volevo lanciarti questo audio in inglese, ci introduce all'argomento di cui vogliamo parlare in apertura con il primo ospite, perché c'è questo grande tema del vaccino. Allora, Conte ha mandato un messaggio al... sentiamo... It has also demonstrated that investments in global health and vaccines are key not only to save lives, to protect the most vulnerable. Ha mandato un messaggio a dire, insomma, noi vogliamo partecipare con l'Europa, con l'Unione Europea, a questa alleanza globale per il vaccino per tutti. Tra l'altro, vabbè, fammi fare questa battuta, sai chi ha parlato dopo di lui? Ha parlato Bill Gates, allora forse aveva ragione quella signora che diceva che c'è il complottone, scherzo ovviamente. Bill Gates però oggi rilascia un'intervista a Paolo Mastrolilli sulla Stampa, molto interessante, perché Bill Gates dice la chiave per i vaccini è la scala, dovremmo investire per riuscire a produrre 1 o 2 miliardi di dosi l'anno, a quel punto non ci sarà un problema perché ci saranno per tutti. Se invece facciamo solo 100 milioni di dosi, allora diventa un rompicapo. Chi le prende prima? A quale paese le diamo? Le diamo al personale sanitario? La gente paga per competere? Ecco, questi temi sono molto molto interessanti. Mario, ne vogliamo discutere con il professor Silvio Garattini che torna con noi? Buongiorno professor Garattini. Buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno professore. Intanto Mario, che considerazione ti fa fare questa di Bill Gates, che ovviamente risponde anche ai presunti complotti e dice ci sarebbe da ridere ma li prendo sul serio perché sono incredibili i complotti. Tutto questo che viene questo filone di pensiero che accusa Bill Gates di nefandezze, furbizie, eccetera, eccetera, è veramente una cosa che mi lascia completamente. Ce ne sono tante di. Cioè, fai la differenza, gli attacchi a Soros. Soros, però, di professione ha sempre fatto lo speculatore, uno che scommetteva contro le valute, eccetera, eccetera. Sì. Ma Bill Gates, da quando ha lasciato la Microsoft, cioè, è uno che ha investito tutto il suo patrimonio in una fondazione con cui fa le vaccinazioni, combatte le malattie, adesso stava facendo un programma immenso in Africa e in Asia sulla malaria. Secondo me è un uomo di grande intelligenza ed è un benefattore, bisogna dire le cose vere, è un benefattore, non è uno, sì. Poteva serenamente comprarsi un'isola e godersi i soldi di uno degli uomini più ricchi del mondo, non lo sta facendo, è uno che legge, studia, eccetera, eccetera. La propaganda che c'è contro di lui mi è incomprensibile, è veramente da scie chimiche. Lui dice sulla stampa i sondaggi che dicono il 28% degli americani, o 28% crede che lei voglia usare i vaccini per impiantare microchip. Dice, è un sondaggio preoccupante, in un certo senso sono accuse bizzarre che vorrei vederle come uno scherzo, ma non lo sono. In ogni caso, professor Garattini, non l'abbiamo chiamata per parlare dei complotti, anche se c'è anche questo tema. Professor Garattini, lei ha lanciato l'allarme dicendo l'Italia rischia di rimanere in ritardo sul tema delle dosi, ma allora ci aiuti a capire, vincerà il modello vaccino per tutti e quindi una solidarietà globale o il modello, come dire, chi paga otterrà per primo? Beh, noi abbiamo difatti da più di un mese fatto un appello anche con Medici Senza Frontiere al capo del governo per ricordare che il vaccino non arriva automaticamente, e cioè intanto bisogna che il vaccino venga prodotto, e ci sono delle buone notizie tutto sommato, perché ci sono almeno 8 gruppi che sono abbastanza avanzati, hanno finito la sperimentazione animale, hanno già fatto un primo studio nell'uomo, hanno verificato che il vaccino produce anticorpi che sono neutralizzanti per il virus, quindi insomma un primo passo è stato fatto. Adesso bisogna andare avanti, perché bisogna avere la certezza che un vaccino che viene somministrato a soggetti sani, quindi che non hanno malattia, deve assolutamente essere senza effetti collaterali che non si possono accettare nell'ambito di un vaccino. E quindi adesso parte l'altra parte importante su un numero maggiore di persone. Poi supponiamo che alla fine dell'anno arriviamo ad avere il vaccino, cioè diciamo c'è un vaccino, bisogna produrlo, e come ha detto prima lei giustamente, bisogna produrlo, o come ha detto anche Bill Gates, bisogna produrlo in miliardi di dosi, perché questa è la necessità se vogliamo, diciamo, aver ragione di questo virus. Allora qui si tratta di vedere chi le fa. Intanto speriamo che ci sia più di una organizzazione che riesce a produrre il vaccino, sì. Però è una quantità di dosi enormi e bisogna che ci sia qualcuno che in qualche modo dirige l'operazione a livello internazionale. E qui, al momento lei sono lo vede, lieto di sentire lei, che il capo del governo ha detto che vuole unirsi a tutta l'Europa, però bisogna fare trattative, cioè, per esempio, per dare un esempio, la Gran Bretagna, da quel che si sa, al vaccino che sta sviluppando l'AstraZeneca ha già ordinato 30 milioni di dosi, bisogna muoversi per tempo, cosa vuol dire? Cioè, arrivare a superare il brevetto attraverso delle delle licenze obbligatorie, abbiamo in ballo la salute pubblica, e quindi i brevetti hanno ragione d'essere, ma quando c'è un problema di salute pubblica importante possono essere superati. Quindi bisogna mettersi in moto e bisogna fare sì che ci siano accordi fra i governi, se si fanno le cose bene, probabilmente, e naturalmente il vaccino arriverà ad essere disponibile, probabilmente sarà a disposizione per tutti. Sì. Questo è l'augurio che naturalmente il tema è capire facciamo. Che cosa dobbiamo fare noi per essere sicuri di avere dobbiamo seguire l'andamento, cioè secondo me, poi non sono io un politico, insomma, ma secondo me bisogna avere un piccolo gruppo di persone esperte. In Italia abbiamo persone esperte di vaccini che segue l'andamento di questi vari gruppi e che aiuta il governo a prendere accordi di tipo internazionale, sì, sia per preparare in tempo i luoghi in cui produrre il vaccino, sia per essere sicuri di avere le dosi che servono all'Italia. Non so, Mario Calabresi, tu che ne pensi? Qui è un grande dibattito questo del vaccino per tutti. Dobbiamo darci da fare, dice il professor Garattini. Temo che l'Italia sia sempre un po' quella che... E non possiamo aspettare l'ultimo momento. Ecco, appunto. Esatto, posso dirti, come è successo con i tamponi, con i reagenti, con i dispositivi di protezione. Mi verrebbe una battuta, forse prima che al partito o alla candidatura il premier dovrebbe pensare ai vaccini. Sì, ai vaccini. Ma tecnicamente cosa vuol dire? Cioè questo gruppo di esperti dovrebbe chiamare, che ne so, l'AstraZeneca, visto che lei l'ha citata. No, beh, questo è un governo, il gruppo di esperti deve seguire, ma chi deve trattare deve essere il governo. E chi bisogna chiamare? Le case farmaceutiche, i centri di ricerca? Bisogna mettersi d'accordo su dove avviene la produzione e semmai poter avere un centro di produzione anche in Italia. Beh, a Pomezia mi risulta che Pomezia è all'interno di questo accordo. Sì, però Pomezia è AstraZeneca. Pomezia, mi scusi, professore? Pomezia è una multinazionale. Ah, ecco. Quindi lei avrà i suoi accordi. Come ho detto, il governo inglese ha già, da quel che si è letto sui giornali, ha già ordinato 30 milioni di dosi, che sono probabilmente più o meno quelle che servono in Inghilterra. Cioè succederà, Mario Calabresi, se ho capito bene, che lo produrranno magari anche a Pomezia, ma andranno in Inghilterra. Poi ci sarà lo scandalo, ma come le producono in Italia, rimangano in Italia? Ma se uno non si muove prima, poi dopo, come i reagenti, sai che ne produciamo tantissimi, ma vanno anche per il mercato estero, Mario. Questo succederà, temo, se non ci diamo una mossa. Senta, sui complotti, professor Garattini, lei che ne pensa? Così giusto sui è arrivata una domanda di Cinzia, per esempio. È vero che il vaccino contiene metalli pesanti potenzialmente pericolosi? Questo è un gran classico che c'è. Come tutte le cose, ci sono tracce di metalli pesanti, pericolosi, proprio no. Va bene, ma sa, su questo tema quando mangiamo il pesce mangiamo metalli pesanti, perché il pesce contiene un po' di mercurio, quindi però dipende sempre dalle dosi. Il vaccino lo prendiamo una volta, due volte nella vita, insomma, non sono obiezioni che fanno ridere. Professore, noi la ringraziamo. Grazie a voi. Mario, grazie di essere stato grazie con professore. Noi. Alla prossima. Caro Mario, a me incanta sempre il professor Garattini, perché la sua lucidità ha veramente... A 90 anni. Pensa a quanti anni è che studia, sì, grandissimo, grandissimo. Ti devo dire una cosa, mentre parlavamo mi è arrivato un messaggino di Gian Antonio Stella, il giornalista del Corriere della Sera, mi ha scritto: certo, non solo Enrico Letta, anche Prodi non era impazzito a Palazzo Chigi. Ah, ecco, va bene. E tu confermi che Prodi non è... Sì, è vero, non ha dato è vero. Di matto. Già, Prodi era Prodi, era un'altra roba. Cioè, Prodi nel senso stava fermo. Che si sentiva Prodi anche prima di entrare a Palazzo Chigi, diciamo così. Ecco, quindi non aveva bisogno di cambiare. Prodi era Prodi, esatto, a 15 anni e era Prodi a Palazzo Chigi, esatto, ed è Prodi adesso, esatto, il professor Prodi. Senti, Mario, un altro che sta meglio adesso di prima, l'ho incrociato l'anno scorso a Bologna, con la bicicletta, cioè, però sì, dice 80 anni in formissima, sì, 80 anni, ma credo molto più in forma di me, che ho qualche anno meno di lui. Anche di te, devo dire. Se io infrancassi la bicicletta, credo che non gli starei dietro a Prodi. Per esatto. Esempio. Sono abbastanza certo. Senti, Mario, ma tu l'altra volta, quando ci siamo occupati di questa vicenda di Prato, che è un po' pruriginosa ma anche interessante, cioè questa signora che ha avuto un figlio con il tredicenne ed è stata condannata in primo grado per violenza sessuale. Sì, lei faceva l'insegnante di inglese, sì, a questo ragazzino. Esatto. Lei trentenne e hanno avuto una relazione. Il padre del bambino, lo chiamiamo così, il marito di questa signora, anche se non è il padre genetico, l'ha riconosciuto. Il marito del bambino, sì. È stato condannato perché ha falsificato. Per false dichiarazioni all'anagrafe. Sì. E tu l'hai intervistato. Sostanzialmente, lei è rimasta incinta. E di questo ragazzino ha avuto un figlio, il marito di lei ha riconosciuto questo figlio come fosse suo e il tribunale ha condannato lei per violenza sessuale perché è andata con un minorenne e ha condannato lui a un anno e mezzo dicendo che lui ha detto il falso riconoscendolo perché sapeva che non era figlio suo. L'altro giorno, quando tu hai intervistato l'avvocato, a me è rimasta in testa questa figura del padre, perché l'avvocato aveva detto il padre lo ha riconosciuto e anche se non è figlio suo, lui dice è figlio mio perché io gli sto facendo da padre. Allora l'ho cercato dopo che eravamo stati in trasmissione dal mercoledì, vedi che invitarmi due volte alla settimana a me serve, grazie. Ti rubo gli argomenti, per cui l'ho cercato e ieri sera l'ho intervistato e l'ho messo nella mia newsletter. Lui tra l'altro non aveva mai parlato e lui mi ha detto questa cosa. Al di là della condanna, io non sono voluto entrare e anche lui non ha voluto commentare la sentenza e il resto, però l'idea che i figli la genetica ha un valore, il DNA ha un valore, la biologia ha un valore, ma crescere un figlio e svegliarsi la notte, cambiargli i pannolini, insegnargli a camminare, eccetera, eccetera, ha un valore. Padre è chi è, a chi fa il padre, chi è il padre. E lui mi ha fatto un discorso su questo che secondo me alla fine ha un valore ed è bello. Certo, la trovate sulla newsletter ovviamente di Calabrese, mariocalabresi.it sì. o.com. Effettivamente è la figura doppiamente vittima. Qualcuno ovviamente qua ci ha scritto in maniera boccaccesca: ah, cornuto, sai che purtroppo insomma la gente si imbizzarrisce, eccetera. E invece io trovo, pur chiedendone la condanna, sì, ha detto quest'uomo è la seconda vittima di questa storia, oltre naturalmente al ragazzino che ha subito la violenza. La mamma, leggendo la tua intervista, ha detto una cosa anche importante, perché se noi avessimo parlato di una storia in cui c'era una ragazzina di 13 anni che, che finiva a letto con un uomo di 30, non sarebbe stato neanche dibattito, veniva buttata via la chiave e si diceva violenza sessuale. E la madre ha detto: i ragazzini, i bambini, che siano maschi o femmine, vanno rispettati entrambi, cioè perché è il rispetto della loro crescita, della loro età, della loro fragilità il punto fondamentale. E anche questo è un dato interessante. Sì. Ma infatti questa storia, guarda, può apparire boccaccesca, di cronacaccia, però è una storia che contiene molte cose invece che attengono alla vita, alle relazioni, che sono fondamentali. Ma assolutamente stamattina mi è presa sì, comunque, seria. No, ma è giusto. Ma io poi l'ho letta, l'intervista è molto interessante, la trovate ovviamente su mariocalabresi.it, gratuita, completamente gratuita. Poi visto che stavolta l'ho detto, la newsletter di Mario Calabresi. No. Allora ti aspettiamo settimana prossima. Se vieni venerdì ti chiederò un bel pronostico per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che vincerete a mani basse. Quindi devi solo decidere se vincerete 2-0, 3-0, 4-0. Poi noi registriamo il pronostico e poi te ne chiederemo conto. Ovviamente funziona così, per sbertucciarti, sperando di sbertucciarti, va bene? ti mandiamo un abbraccio, caro Mario. Ciao, alla Alessandro. Prossima. Ciao. Andiamo un attimo, ciao, in pubblicità. C'è Vestagliona Manera che è in arrivo, non su Facebook. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma adesso siamo in diretta video anche su Facebook. Ci trovate lì. Pubblicità e poi Manera e poi altri ospiti. Uno, nessuno, 100 Milan. Come diceva il buon Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha. Ci ricorderemo del camaleo Conte per aver portato l'Italia giù del più del 10%. Ciao Leonardo, ma la Belluggi che fine ha fatto? Perché in questo momento ho bisogno di soldi, intanto scusate. Scusate, ma io ho catturato un ragno che è cercato, potete vederlo su Facebook, è venuto a rubare il cellulare che era stato sequestrato, un ragno, è mia figlia Angelica, che di soppiatto viene per prendere il cellulare, va bene. Leonardo, che fine ha fatto Eccoci. La Belluggi? Presente qui, la Belluggi, insomma il problema è che farli così a distanza è un po' difficile. Bisognerebbe che Peter in regia li recuperasse quegli spot della Belluggi. Io oggi non mi sento molto bene, devo dire, sono sincero. Ma infatti cosa stavi facendo? Un'aspirina si stavi prendendo? No, stanotte ho fatto un sogno strano. Continuavo a sognare dei gatti che però mi trattavano male, non erano ben disposti nei miei confronti. E non so che cosa possa significare questo sogno. Se qualche ascoltatore ha qualche idea. Ma cosa facevano esattamente? Cosa facevano? Facevano i dispetti, addirittura... È brutto dirlo, ma insomma, mi graffiavano di peggio, facevano i loro escrementi anche davanti a me, mi trattavano male e non so che significato possa avere questo. Attenzione, sì, di tutti i gatti. C'è qualche interprete di sogni, qualche cultore di Freud, non lo so. Bene, quindi quanti erano questi gatti? Diamo dei particolari. Ma erano diversi, tanto, però poi ce n'erano due. Sì, sto prendendo un caffè con un biscotto. Sì, sì. In particolare ce n'erano due che erano particolarmente mal disposti nei miei confronti e dentro una serie di altri gatti. E io vorrei sapere se qualche ascoltatore... Anche? No, non è che mi graffiavano, però manifestavano disprezzo nei miei confronti. Invece di dire miau facevano ma anche i gatti. Vabbè. Sì. What? Cos'è il sogno di Leonardo Manera? Va bene, va bene, dai, siamo qua, sono le 9:38 minuti. Allora, io adesso vorrei parlare e raccontare una storia che è legata alle onorificenze ultime che il Presidente della Repubblica ha conferito. Nello specifico, credo che abbiamo in onda un ospite che possiamo tra poco salutare, un imprenditore di Bellusco, quindi siamo in Brianza, provincia di Monza, è stato insignito il titolo di Cavaliere del Merito del Presidente della Repubblica Mattarella. Si tratta di Pietro Terragni, che salutiamo. Buongiorno Terragni. Buongiorno a voi. Lei è una torcitura, lei zu a Bellusco. Cosa fate esattamente? Di cosa vi occupate nella vostra impresa? Di lavorazione, allora, non sappiamo interpretare i sogni dei gatti, Leonardo, ma è lavorazione di fiato. Lavorazione dei filati, ottimo. Allora, uno dei 57 insigniti da questo titolo, perché il motivo è anche legato al coronavirus, è legato a una vicenda drammatica, cioè un suo dipendente deceduto per il coronavirus. Allora, lei ha scelto di assumere la moglie di Erminio Misani. Tutta la nostra famiglia, certo. Tutta la vostra famiglia, perché questo signore lascia ovviamente la signora Michela e i tre figli. E quindi ha fatto questa scelta. È stata una cosa scelta così di istinto, di improvviso? Come vi è venuto in mente? Purtroppo il nostro dipendente è morto il giorno che per decreto abbiamo chiuso, quindi il 23 o il 24 marzo, non mi ricordo. È morto in brevissimo tempo perché ha preso il virus in una forma molto violenta e subito. La moglie ha chiamato mio fratello, perché mio fratello, che poi segue il personale, chi lavora con noi, e era un po' disperata perché era un periodo anche di grande confusione, non si sapeva dove fosse uno in ospedale, non c'erano comunicazioni di qua e di là. E poi parlando ha detto, poi io non lavoro, e ho detto, mio fratello, quindi abbiamo parlato, l'abbiamo richiamato, ha detto, guardi, sia tranquilla, se ha bisogno di qualsiasi cosa e se vuole venire a lavorare con noi, venga pure. Sì, che detta così è molto molto semplice come soluzione, però è un gesto, guarda che il mercato del lavoro in questo momento così in difficoltà e anche, e vorrei anche capire dal suo punto di vista, facendo l'imprenditore di famiglia da tanti anni, no? non è una soluzione così immediata. Cioè non lo dica come se avesse fatto un gesto normale, non è proprio un gesto normale quello che avete fatto. Che ci ha colpito, ma ci ha colpito veramente, è che sembra che non sia normale, questa è la cosa. Beh, ma anche perché in genere i propri dipendenti uno li deve formare, li deve scegliere, invece voi avete fatto anche un gesto di estrema solidarietà nei confronti di noi abbiamo chiesto a lei se volesse venire, noi abbiamo detto venga a lavorare, sia piacere. Però le aveva già oppure la state formando adesso? Ha iniziato a lavorare lunedì, sì. Ha iniziato a lavorare lunedì. Non so se avete colto, cari ascoltatori, è un dipendente che muore per il coronavirus, la famiglia che si trova in difficoltà dice io non lavoro, hanno tre figli e quindi la scelta di assumere la moglie. Come ha reagito la signora? Cioè, è rimasta colpita positivamente, immagino, ma... Purtroppo le abbiamo fatto l'offerta, cioè le abbiamo fatto questa proposta, diciamo, appena il marito era morto, quindi abbiamo detto, certo, pensi pure, faccia quello che vuoi. Lei poi si è chiamata e ha detto, mi piacerebbe, ma non sono in grado. Allora, non è che non stanno in grado, si trova una mansione, si trova... Ovviamente la signora non ha finito la scuola ieri, ha cresciuto tre figli e tutto, e abbiamo trovato una mansione che lei può imparare a ricoprire. A ricoprire, perché questo è appunto il tema della formazione, in questo dico, non è che si può sostituire una persona con un'altra, un'azienda, no, bisogna poi anche... Il marito era un nostro capito meccanico che quindi faceva tutt'altro lavoro. Cioè. Quando avete ricevuto la chiamata del Quirinale, come funziona? Cioè il Quirinale vi ha chiamato? No, chiaramente non lo so, non ci ha chiamato nessuno. Ah, quindi cioè, c'è stato l'annuncio, ma al momento come l'avete appreso? No, guardi, siete stati insigniti. È arrivato mio fratello che stava facendo una piccola pausa, leggeva e mi ha detto, t'han fatto cavaliere. Dico, ti hanno fatto cavaliere, così, ti hanno fatto cavaliere. E lei ha detto, che vuol dire? Mi hanno fatto cavaliere. Ma io non ho capito, no. Ho detto che pensavo scherzasse di qua e di là, non avevo neanche collegato con la notizia del presidente che avesse nominato i cavalieri. E poi mi ha fatto molto piacere. Come funziona? Lei è stato ricevuto al Quirinale? No. Immagino. Allora, io purtroppo non so niente, quindi ho chiesto a un mio amico che è il sindaco del paese dove vivo, se lui sapesse come funziona. E ieri mi ha spiegato che la Presidenza della Repubblica fa questo decreto che poi comunica al prefetto. Sì, diciamo che non ci sarà, credo, una celebrazione pubblica in questo momento perché per via del coronavirus. Allora, però... loro dicono che c'è una procedura ordinaria che vuol dire che vai dal prefetto e il prefetto ti consegna questa cosa. Sì. Il presidente potrebbe farla straordinaria, quindi fare una cerimonia, però al momento farò non so. Al momento io credo che non ma non è sicuro, ci sarà. No. È sicuro che sia vero, perché a quanto pare nessuno sa niente. Magari una bufala, ha fatto uno scherzo. Ma è finito, ma non è... Facciamogli uno scherzo, diciamo che l'abbiamo fatto cavaliere. No, no, no, è uno dei 57 con tanto di foto e racconti su tutti i giornali, neo cavalieri, neo insigniti del titolo di cavaliere al merito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, smettila, Sara, caro Leonardo. No, potrebbe essere una cosa, uno scherzetto, facciamo un cavaliere. No, no, non è uno scherzetto e devo dire che secondo me... Non è uno scherzo, è una cosa che fa molto piacere, una cosa vera, e ripeto, è uno dei 57 gesti che sono stati insigniti, sono stati allora, premiati con questo titolo. È molto, molto più encomiabile dei miei, o della mia famiglia. Sì, va bene, ma io credo che... sì, ma forse è una classifica che ci sono moltissimi medici, certamente, ci sono moltissimi infermieri, sì. C'è un rugbista della nazionale italiana, tra l'altro, che è stato, credo, 70 giorni di seguito sulla Croce Rossa come volontario, ma c'è anche Pietro Terragni, ripeto, imprenditore, avete questa torcitura di famiglia, credo, fondata da nonno e a Bellusco, e dopo la morte di un dipendente avete deciso di assumere la moglie, la vedova, che è rimasta con tre figli a carico. Non è un gesto, non si sminuisca così, insomma, Terragni, no, perché non è un gesto, non è un gesto assolutamente secondario. Intanto la ringraziamo, cavalier Terragni, ecco, adesso dovremmo, no, cavalier Pietro, Terragni, dai. Va bene, anche tu però, Leonardo, porto cavaliere. Oh, tu non sì, lo sarai prima mai. Prima voglio vedere l'onorificenza, dopo lo chiamerò, ecco, anch'io cavaliere, prima voglio verificare. Ecco. Va bene. Per questa cosa, questa storia mi ricorda un po' quello che diceva ieri Ferruccio De Bortoli, no? Che l'Italia è un paese dove sul territorio c'è molta solidarietà, poi magari si fatica a estendere questa solidarietà, diciamo, anche a livello nazionale, però ogni territorio si dà da fare per aiutare chi ne ma ha bisogno. Sì, sì. C'è tanto bene che non finisce sulle prime pagine dei giornali, tranne quando vengono insigniti dell'onorificenza, come in questo caso e in altri 56, va bene? Allora, siccome so che fremi, dopo il traffico ti leggerò un altro pezzettino di Io sono il potere. Ho deciso che ogni giorno ne leggo un pezzettino. Oggi leggerò l'elogio della raccomandazione. Ti piace la raccomandazione? Ma, guarda, sto pensando di acquistarlo, sto facendo... Va bene. Questo pensiero. Smettila, vorresti che io te lo prestassi, dai. Donna, hai problemi di herpes labiale che si presenta regolarmente prima di ogni appuntamento importante? Allora non ricorrere a pomate e cerotti che hanno solo un effetto limitato. Acquista invece le labbra finte Bellugi, le labbra in similpelle da applicare sopra le tue e che donano anche una pronuncia esotica. Sì, dobbiamo anche io uso labbra finte Bellugi. Labbra finte Bellugi. Perché l'amore viene prima dell'herpes. Uno, nessuno, 100 Milan. Infatti io Milan non riesco a capire, cioè io non ho mai smesso di lavorare, non ho mancato mezza giornata dal lavoro, siamo tornati adesso tutti a lavorare e voi siete ancora tutti a casa vostra, cioè, io non riesco a capire perché non potete andare in radio a lavorare come tutti gli altri. In base all'interpretazione dei sogni di Freud, quando i gatti fanno gli escrementi davanti alla persona, in questo caso a Manera, vuol dire che la persona stessa troverà la donna della sua vita. Non credo che Freud credo grazie, che questo sia un tuo ammiratore, grazie. Un tuo ammiratore è una così. Bellissima interpretazione. Ma chissà quindi il collegamento quale posso, sarebbe, scusa, non lo so, però io ci credo. Io inviterei a questo ma punto dai. Delle donne che hanno dei gatti a invitarmi, sì, a casa loro, e spero che poi questi gatti defechino davanti a me. Allora, stanotte Manera ha sognato dei gatti che facevano dispetti a lui, anche defecando davanti ai suoi occhi. Cosa significa secondo l'interpretazione dei sogni? Vabbè, invece Leonardo, io so che sei innamorato di questo libro nel quale sono rimasto invischiato, Io sono il potere, e sono le confessioni in anonimo di un capo di gabinetto di un ministero. Parla per esempio della raccomandazione, tra l'altro dice, ovviamente elogiandola in maniera chiara, anche perché dice c'è una sentenza della Cassazione che ogni buon capo di gabinetto recita come un pater ave gloria. È quando l'ex senatore Luciano D'Alfonso del PD, da sindaco di Pescara, scrisse diverse lettere al direttore generale di un'ASL per sollecitare lo spostamento e il trasferimento di una dottoressa. Questa dottoressa fu trasferita e quindi diede 3.000 euro di dono al sindaco per ringraziarlo. Ci fu l'inchiesta, eccetera, ma D'Alfonso è stato assolto in ogni grado. E allora, scrive il capo di gabinetto, libera raccomandazione in libero stato, è giurisprudenza consolidata. La segnalazione è una tradizione italica, nel bene e nel male, figlia di abitudini secolari da tutelare come certi paesaggi e usanze dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E continua. Ci sono le raccomandazioni del capo di gabinetto e oltre alle proprie, il capo di gabinetto deve gestire quelle che arrivano dal ministro, che hanno carattere imperativo e vanno eseguite con disciplina e onore. E poi racconta tutte le raccomandazioni. Ma non è meraviglioso? Bellissimo. Non è straordinario? È vero però questa cosa, che essendo diventata una consuetudine in Italia, sì, crea giurisprudenza, sì. Quindi è diventata una cosa accettabile, anzi appunto è fonte normativa. È fonte normativa, dice lui, dice ogni capo di gabinetto, sì, legge, sì, questa sentenza della Cassazione 38762, quella riguardo ad Alfonso, come un pater ave gloria, cioè come dire grazie, possiamo raccomandare in maniera tranquilla. Vai, lunedì vi farò un altro, leggerò un altro stralcio di Io sono il potere. Ale. Allora, questo periodo di coronavirus ha causato in molte persone problemi di ansia, che spesso determina anche disturbi fisici come sensazioni di soffocamento, tachicardia, coliti, debolezza alle gambe, tremori, orticaria, sudorazione e calo del desiderio. L'ultimo livello è l'angoscia, la cui etimologia deriva dal latino angere, cioè stringere, che esprime bene quella sensazione di soffocamento, di tensione. Oggi, vedete, ho voluto iniziare bene la giornata. Ma l'ansia può anche avere effetti positivi perché permette, dicono gli esperti, di essere più performante. Però è un boomerang, perché infatti l'ansia spesso nasce perché ci chiedono di essere più performanti e allora subentra l'ansia, che magari ci fa essere, sì, più performanti, però ci fa venire anche tachicardia, coliti, tremore, orticaria, eccetera, le cose che dicevo prima. Insomma, sei più performante, ma poi quando torni a casa stai uno schifo e i soldi che guadagni in più li spendi in medicine. Allora, magari per placare l'ansia anche da coronavirus si sta sui social, ma si peggiora la situazione perché l'ansia nasce anche dal rapporto distorto con i social. Cioè tutte quelle persone che ogni giorno vediamo con la testa china sul telefono, e anch'io, anche tutti noi, mentre siamo lì con la testa sul telefono, stiamo coltivando l'ansia. Il telefono è il cavallo di Troia per far entrare anche l'ansia nel nostro corpo. È come lasciare la finestra aperta a Dracula e invitarlo a entrare dentro di noi. I social hanno creato anche un bisogno di esibizione di se stessi, di cui non possiamo più fare a meno. Noi postiamo sui social qualsiasi cosa e restiamo in attesa di una risposta. E l'attesa di ricevere un like da qualcuno ci mette ansia. Io posto, per esempio, qualcosa che ho cucinato e se non ho abbastanza like mi viene l'ansia. Posto una vacanza che ho fatto e se non ho abbastanza like mi viene l'ansia. Metto la foto del cagnolino e se non ho abbastanza like mi viene l'ansia. Io prendo un cagnolino per rilassarmi, ma se poi metto la sua foto su Facebook e non ho abbastanza like mi viene l'ansia, e allora cambio cane, ne prendo uno più figo, così viene l'ansia anche al cane, ma non è colpa del cane. Io affido il mio valore anche personale e di quello che faccio ai like di persone che magari non conosco, oppure conosco poco. Oppure su WhatsApp, se vedo qualcuno che ha letto il mio messaggio e non mi risponde in fretta, mi viene l'ansia. Mi viene l'ansia anche quando compare la scritta sta scrivendo, cosa sta scrivendo, e allora magari non mi sento amato se non mi risponde subito. Allora io valgo come persona solo se sono considerato abbastanza sulla rete, sui social, e se non ho successo sulla rete mi viene l'ansia. E la mia donna mi lascia perché la nostra foto insieme non ha avuto abbastanza like. Insomma, il coronavirus ha fatto aumentare in molti di noi l'ansia, anche perché siamo stati di più sui social. Adesso però il coronavirus sta arretrando. Finalmente potremo tornare a fare la vita di prima, ritrovando esattamente tutta l'ansia precedente. Insomma, in definitiva, si può vivere senza ansia, ma senza ansia non si può dire di aver vissuto. Questo per dare un bel messaggio a tutti. Mi è venuta l'ansia, sì. Mi è venuta un pochino d'ansia. Allora, ricordiamo, siamo alla ricerca di interpretazioni un po' più serie e corrispondenti alla verità del sogno di Leonardo Manera, di quella che ci ha mandato l'ascoltatore. Riepiloghiamo il sogno, Leonardo, riepiloghiamo il sogno che hai avuto, sì, questa notte. Ho sognato che ero in mezzo a una serie di gatti miagolanti. Preciso però. Serie, quanti, sì. Di che colore? Quanti, non so, tipo? Erano diversi, un po' di tutti i colori. In particolare ce n'erano due che reagivano male nei miei confronti. Ecco, uno graffiava, l'altro defecava, davano fastidio, erano infastiditi dalla mia presenza. Quindi vorrei capire qual è il significato di questa È una sfida Lucchetti. Sfida Lucchetti potrebbe essere. Lucchetti, almeno abbandona la tecnica Lucchetti. Certo, adesso se dici la sfida Lucchetti dirà no, lascia stare che ho già cinque cose da fare prima di questa. È la tecnica Lucchetti, no? Brandendo dei fogli, facendo finta di essere impegnata. Si sta anche spostando i capelli da una parte all'altra, sbuffando. Quello è necessario, è fondamentale per la tecnica Lucchetti. La tecnica Lucchetti. Intanto si sposta i capelli da destra a sinistra. Di lavorare. Sì. No, però sarebbe, se avesse un attimo di tempo anche per noi, la sfida Lucchetti. Guarda, è già arrivata. Secondo Freud, il gatto nei sogni può rappresentare la sessualità femminile, attenzione, percepita come pericolosa e castrante per l'uomo. È una interpretazione leggermente diversa rispetto a quella dell'ascoltatore di prima, che ha detto che è il sogno che vuol dire che troverai la donna dei tuoi sogni, sì, per l'appunto. Ma io credo più alla prima interpretazione. Io credo più a Lucchetti e a Freud. Secondo Freud, il gatto nei sogni, e dice, giuro che non me la sono inventata per te, aggiunge, caro Leonardo, aggiunge Miriam Lucchetti, il gatto nei sogni può rappresentare la sessualità femminile percepita come pericolosa e castrante per l'uomo. Devi dirci qualcosa, Leonardo? Ma al momento cambiare... no, però voglio cambiare attitudine, ma adesso ci penserò. La sessualità femminile è pericolosa, è castrante per te. Ma molto, sì, inutile negarlo. Allora forse potresti fare un pensierino, insomma, cambiare sponda. Sì, esplicito, ecco, sì, esplicito. Adesso ci penserò e domani, lunedì riferisco, va bene? Nel fine settimana farò questa esperienza per la tua gioia. Psicologi e psicologhe, dai, diteci questa interpretazione del sogno di Manera su intanto Giornale Radio. 1, nessuno, 100 Milan. Mamma mia, Milan, come fai a ridere quando leggi questo libro? A me si rizzano i peli sulle braccia, sulle gambe, ovunque. Buongiorno Ale, buongiorno Leo. Scusate, ma i pacchi per lo spirito non vengono più mandati? Il sogno è chiaro, Leo. Sono quei quattro gatti che ti vengono a vedere di solito, che non fai più ridere neanche loro. È per quello che erano maldisposti verso di te. Pensa quanto è amara la vita, anche in sogno vengono a perseguitarti. No, ma guarda che allora, seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, stiamo interpretando il sogno di questa notte di Leonardo. E Leonardo, guarda, ha scritto Alexei, soprannominato Alessei, ormai lo sappiamo, dalla Russia, dicendo che è il comportamento sprezzante mio nei tuoi confronti che ti fa nell'inconscio rappresentare con questi gatti che sono aggressivi nei tuoi confronti. Ci ha scritto anche Letizia Puccioni, che salutiamo, da 105. Sognare il gatto che defeca, giuro, significa, può avere significati positivi o negativi, indica il confrontarsi con le conseguenze sgradevoli di atteggiamenti eccessivamente liberi e menefreghisti o il bisogno di liberarsi da regole e condizionamenti. Quindi ti senti imbrigliato, Leonardo, ti senti oppresso. Sì, mi sento imbrigliato, molto. C'è qualcosa? Sì. Devi dirmi qualcosa? Beh, lo sai che insomma ci sono molte cose che mi opprimono. Comunque non importa, non voglio stare qui adesso a dire che partecipare a questa trasmissione tutte le mattine. Sì, sì. Ecco, appunto, esatto. Volevo dire, forse sei un po' stanco di fare questa trasmissione? Beh, quello da tre anni. Non devi rispondere per forza. Voglio rispondere all'ascoltatrice. Beh, adesso sì. Che Peter ha mandato la musica amara, voglio anche dire che questa trasmissione ha cambiato completamente la mia vita. Prima potevo svegliarmi, alzarmi liberamente, andare al bar a fare la colazione alle 11 di mattina, guardarmi intorno, anche sviluppare in modo più libero la mia creatività. Invece da quando tutte le mattine devo essere presente alle 9:30 sento un inaridirsi della mia vita, sia esteriore ma anche quella pratica, perché sono legato dagli orari che faccio fatica a rispettare. E quindi penso che andrò incontro a delle conseguenze alle quali purtroppo non potrò mai più rimediare. Amici ascoltatori, allegria! E vabbè, abbiamo distrutto l'uomo. Sì? Voglio solo rispondere all'ascoltatrice. Questa settimana per il pacco per lo spirito c'è stato un ritardo perché c'è stato il 2. Aspetta che la tua app ha avuto dei problemi, vedi, appena si è parlato di una cosa che deve fare, l'ha boicottata, ti sei sganciato e riattaccati, dici bene cosa succede per un pacco dello sintomo? Questa settimana per il pacco per lo spirito c'è stato un ritardo perché c'è stato il ponte del 2 giugno, ma adesso li mandiamo, scusarmi con l'ascoltatrice. Allora, adesso vogliamo parlare di un libro. Lo facciamo con un collega del Corriere della Sera, Andrea Galli, che saluto. Andrea, buongiorno e grazie. Ciao, di essere grazie, qui, ciao Alessandro, grazie per essere. Allora, perché Andrea Galli ha scritto un libro che è uscito per Rizzoli, il titolo è Sicario, è una storia vera. È una storia vera, non c'è niente da romanzare, c'è solo da raccontare. Andrea lo fa molto bene raccontando la vita di quest'uomo, Kulian Sinanay, che è un sicario. Infatti il titolo proprio che campeggia a piena copertina è proprio questo, Sicario. È la storia forse del sicario dell'Est Europa più utilizzato, più forse anche efferato. E Andrea Galli riesce a scavare attraverso la ricostruzione della sua vita in tutta la sua esistenza. Come si diventa sicari? Ecco, anche se questa prima domanda, come si diventa sicari, Andrea Galli, non c'è una canonizzazione, una spiegazione di questo percorso precisa, cioè non è che c'è uno si sveglia e si improvvisa sicario, o no? No, non è che uno si sveglia e si improvvisa sicario, è chiaramente un percorso che arriva al termine di un percorso esistenziale che non per forza doveva avere quello sbocco. Qui stiamo parlando di un ragazzo come tanti che è nato nell'Albania quando ancora c'era la dittatura, poi ha vissuto nell'Albania della guerra civile, poi come tantissimi altri connazionali, insieme al papà ha lasciato la sua città, si è trasferito, ha fatto la vita da migrante, in realtà nei primi tempi anche da profugo perché comunque stavano accampati dove capitava, e se vogliamo quindi coordinate di base difficili ma uguali a quelle di tanti altri, poi c'è stato l'incrocio tra la vita di strada di questo ragazzo, la malavita georgiana che a Salonico, dove arrivò con il padre negli anni, soprattutto negli anni della grande crisi economica greca, è stata molto forte, molto potente, molto invasiva, e in un percorso, se vogliamo, lineare dal punto di vista proprio della crescita dell'educazione criminale, ha iniziato con il primo delitto, poi il primo duplice delitto, poi ne ha fatto un altro, si è specializzato anche in attentati soprattutto con il tritolo, quindi ha fatto attentati a un tribunale, e fin quando poi non è stato catturato. È stato arrestato perché qualcuno evidentemente l'ha venduto. È una storia che affonda anche le radici nella dittatura albanese di Enver Hoxha, certo. Che racconta proprio la povertà dell'Albania, il dramma, perché il dramma sicuramente dell'emigrare, dell'andare in altri paesi, del finire poi a Salonicco, soprattutto dove ha imparato a fare il criminale sotto le grinfie della mafia, non si sa neanche quanti omicidi abbia compiuto. Mi ha colpito molto il racconto di questa figura, che è una figura ossessionata dall'ordine, che sembra fare un po' a pugni, cozzare contro invece la natura di questo uomo spietato sicuramente. Cosa vuol dire che è ossessionato dall'ordine? La maniacalità dell'ordine sia nella gestione della propria vita quotidiana, sia cioè un ordine che noi riscontriamo nella preparazione e poi nell'esecuzione degli omicidi, perché non fosse stato per quel, diciamo, socio che lo ha venduto, non fosse stato per le indagini, e non fosse stato anche per una certa stanchezza che a un certo punto della sua vita sicaria ha avuto, non l'avrebbero mai trovato, perché tutte le scene del crimine dove lui ha operato sono state molto pulite, nel senso non c'è mai stato un errore anche neanche minimo, non c'è mai stata una sbavatura nel lasciare un indizio, nel lasciare una fonte di prova, nel lasciarsi dietro uno sbaglio. Quindi è una preparazione, cioè gli omicidi nascevano molto tempo prima con i pedinamenti, i sopralluoghi, le fotografie, lo studio proprio della vittima, e poi successivamente c'era l'esecuzione che, ripeto, avendoci indagato più persone, più squadre omicidi, più magistrati e più procure, sono state scene del crimine dove è stato difficilissimo, anzi impossibile, trovare degli sbagli, proprio perché non vorrei banalizzare né sintetizzare, ma è quest'uomo, già giovane peraltro, classe 83, è stata una macchina creata, costruita, sviluppata per commettere omicidi e non farsi beccare. No, cioè terribile, cioè, bisogna dire, era bravo a fare il suo lavoro, e scusate se utilizzo la parola lavoro. È stato bravissimo. Questo rientra un po' nell'immaginario collettivo anche cinematografico, no? Io penso a un film tipo The Jackal, dove il protagonista pianificava perfettamente tutto. Forse per fare quello bisogna essere così, è una caratteristica comune. Sì, assolutamente. Io ero inizialmente, quando ho iniziato a raccogliere informazioni e me le si davano in questa maniera, ero un po' diffidente, perché dicevo, qua stiamo prendendo una china cinematografica, mi pare strano che sia così. Effettivamente però è stato così, peraltro poi è un killer ambidestro, quindi ha sparato benissimo sia con la destra che con la sinistra. Ci sono aneddoti che, quando lui deve raccontare, quando viene catturato, lui prima di uscire di casa ha messo una bomba alla porta, perché nella paura che gli entrassero in casa senza sapere che stava per venire catturato. E lì c'è il magistrato che l'ha arrestato, gli chiedo che cosa hai messo sulla bomba. Questo qui in 3 minuti e mezzo mi fa uno schema articolatissimo dell'ordigno, come se avesse studiato esplosivi per 25 anni e fosse un cattedratico, cioè una stesura rapidissima, dettagliatissima dei fili, delle angolazioni, dei percorsi dell'energia elettrica e Neschi, fatta al volo, quasi fosse un grafico che lo fa il computer. Sì, diciamo un personaggio di un film, solo che è un personaggio in questo caso reale. Julian Sidana, dove si trova adesso fisicamente? Lui poi ha iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia, in isolamento in Albania. Nel momento della cattura c'erano state fortissime pressioni sia da parte dei greci sia da parte dei servizi segreti russi, con i quali comunque lui ha lavorato, per agevolare regolarmente l'estradizione, perché comunque ci sono almeno dei 3-4 mesi di buio oscuro con dei delitti presumibili riconducibili a lui, che però non sono stati ancora accertati. Quindi c'era stata la volontà anche da parte di Nazioni Estere di prenderselo, diciamo, per farsi raccontare delle cose. Poi il magistrato che lo gestì tenne duro, e quindi rimane lì in carcere a Tirana. In Albania, giustamente tu hai sottolineato che ci c'è anche storia di servizi segreti, perché a un certo punto, quando si diventa di professione killer, in qualche modo i servizi segreti entrano sempre in gioco. Sì. Non si sa neanche quanti delitti abbia compiuto a questo punto nella sua vita. Totalmente no, perché appunto c'è, per esempio, un periodo insieme ai servizi segreti russi, deviati e non deviati, in Grecia, soprattutto ad Atene, al quale però lui non ha assolutamente voluto dire nulla, e io personalmente, nonostante la fatica, non sono riuscito, anche da fonti greche, no, assolutamente no. È interessante, tu sei giornalista, cronista del Corriere, inviato, però da scrittore, perché ti è incuriosito così tanto cercare di entrare nella mente di un serial killer, di un assassino, di un criminale? Ma forse sarà una risposta banale, ma c'era di primo acchito, quando avevo iniziato a studiarlo, l'assoluta totale normalità. Cioè, ripeto, un ragazzo con una sorella, figlio di due operai metallurgici, che vive l'infanzia difficile come tanti altri, e che però poi di improvviso, dopo un percorso di 10-15 anni, si trasforma in una macchina. Mi aveva incuriosito molto, quando mi anche di cronaca nera, proprio come avevo detto prima, la preparazione e la tipologia e le formazione, cioè la sua metodica. Attività professionale. Uccideva, poi faceva la foto per mandarla al committente, foto, proprio, esatto. Proprio come nei film, è incredibile. Ma i committenti chi sono? Cioè chi dice adesso voglio commissionare un omicidio? Sono stati clienti vari, nel senso che diciamo clienti privati che volevano delle vendette personali magari per motivi di lavoro, poi parliamo comunque di un'area balcanica dove il tema della violenza della vendetta è molto forte, molto esacerbato. Ci sono stati pezzi della politica che hanno commissionato un omicidio, per esempio, che riguardava un carico di cocaina che si era perso vicino al Salento in mare. Ci sono state bande di malavitosi che hanno voluto eliminare rivali sempre malavitosi, così come era avvenuto per esempio in Grecia, dove la mafia georgiana lo aveva soldato per eliminare un rivale che aveva un po' troppo alzato la cresta per quanto concerneva le estorsioni. Quindi diverse tipologie di committenti, unico sicario. Beh, insomma, leggete tutto in Sicario, è la storia di Julian Sinanay che Andrea Galli ha raccontato per Rizzoli, lo trovate in libreria. Noi, Andrea, ti ringraziamo perché è uno spaccato, ripeto, che sembra molto cinematografico ma è incredibilmente reale e vero, legato al forse il sicario più celebre e più attivo di quell'area geografica. Dopo il traffico mi permetterò di consigliare un film in materia, perché vorrei anche eliminare la rosa purpurea di Franco d'Assisi. Quindi, oltre bene, Alessandra Tedesco, vorrei adesso che ormai come dire è fatta fuori, rimane solo l'ultimo tic per spingerla in un pozzo e poi dopo punti alla rosa purpurea. Va bene, dopo il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Le feci nei sogni porta soldi, questo è storicamente documentato. E col fatto che i gatti lo graffiassero vuol dire che soffrirà, ma gli arriveranno dei soldi. Oh, soldi! Soldi, soldi, soldi. Sei contento? Ti piace questa interpretazione? In questo periodo, sì, non guasterebbero in questo periodo. Allora, consiglio il film. In tema di sicari e killer c'è un film molto divertente di un regista che si chiama Aki Kaurismäki, finlandese. Il film si intitola Ho affittato un killer. È la storia di una persona ovviamente. Che certo, sì, l'ho visto. Racconto strano, anche brevemente, faccio la sinossi. Non è come i libri. Cioè, stavolta lì. No, vabbè. È la storia di una persona che, siccome tutto gli va male nella vita, affitta un killer perché non ha il coraggio di suicidarsi, non ci riesce, e allora affitta un killer per farlo al posto suo, per evitare il suicidio, ma fare in modo che qualcuno lo uccida. Poi però, ottimo, il giorno dopo conosce una donna che gli cambia completamente la vita, e allora lui vorrebbe dire a questo killer di non ucciderlo più, ma non lo trova, non riesce più a rintracciarlo e vive per qualche giorno fino alla fine del film col terrore di essere ucciso da questo killer che aveva soldato lui per farla finita. E la fine non la diciamo, andatevi a vedere Ho affittato un killer di Aki Kaurismäki. Bene, bene, bene. Allora, adesso vogliamo tornare sul tema che mi ha affrontato ieri quando abbiamo avuto il professor Tamietto, colui che porta avanti questa sperimentazione sui macachi. Il TAR del Lazio gli ha dato ragione, ora la LAV, Lega Antivivisezione, farà ricorso al Consiglio di Stato, ma c'è anche un avvocato che ha presentato denuncia per chiedere il sequestro dei macachi. David Zanforlini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, perché lei lo ha fatto? Perché è un animalista convinto? Ci spieghi come mai vuole sottrarre questi macachi dalla sperimentazione? Io non voglio sottrarre niente, perché in realtà è un problema di rispetto della legge. Cioè, io credo che la legge sia uguale per tutti e chiunque, che sia un grande esponente di un'istituzione pubblica, come l'ultimo, ammesso che esista un ultimo nei cittadini della nostra Repubblica, debba rispettarle nella stessa identica misura. Ma il TAR del Lazio le ha dato ragione, vuol dire che la rispetterà la legge all'università? Non c'entra nulla, questo vede, sono due cose completamente diverse. Io capisco l'equivoco, se vuole provo a spiegarlo. Non c'entra niente la mia denuncia con la sperimentazione, è una circostanza. della vicenda, ma non sono legate le cose. Nel senso che devo farle la spiegazione, perché sennò non si capisce. Allora, io sì, premetto che la denuncia l'ho fatta come privato cittadino, perché credo di aver visto un reato, la commissione di un reato, e credo che un cittadino responsabile lo debba portare alla... Che reato ha denunciato? Maltrattamento di animali. Maltrattamento di animali, ok. Cioè, ma è banale, non è, lo possiamo vedere tutti. Beh, però l'uso dell'animale per sperimentazione scientifica è consentito dalla legge, ci sono molte restrizioni, ma è consentito. Perché sì, ma non per ricada sempre nello stesso equivoco, perché sennò non ne usciamo. Io non sono, cioè, io non sono a favore della sperimentazione per questioni mie personali etiche, ma questo non c'entra niente, c'è una legge dello Stato che lo consente, per cui finché quella legge è in vigore io la rispetto. Il problema è un altro, che anche lo sperimentatore deve rispettare la legge. Allora, se le devo fare la storia, perché ripeto, se no non si capisce. Io per vicende mie di lavoro assisto Parma Etica, che è un'associazione in realtà sportiva, diciamo legata allo sport come modo di vivere in armonia con la natura. Sì. In virtù di questa attenzione per anche il mondo animale, ovviamente, visto che la natura è composta anche da animali, Parma Etica mi aveva chiesto di interessarmi per la questione dei macachi, in particolare per capire se c'era questa sperimentazione. Allora, la legge sulla sperimentazione consente di, è una deroga, cioè la regola è non si devono maltrattare gli animali. Questo lo dice il codice penale, 544 bis, uccisione, 544 ter e via dicendo. Cosa succede? Che esistono delle, diciamo tra virgolette, esimenti a questi reati. Banalissimo il caso della macellazione d'uso alimentare. È un esimente, se no tutte le volte che uno macella un animale sarebbe condannato. Sì, se no dovremmo arrestare tutti i macellai, certo, e chiudere i macelli. No, sarebbe, vabbè, quello è un'altra parentesi. Per la sperimentazione è la stessa cosa, io faccio un esperimento, c'è una deroga alla violazione della legge penale perché sto facendo la sperimentazione. Quando non faccio la sperimentazione, io l'animale, se lo detengo, lo devo trattare etologicamente in maniera corretta. Lei come fa a essere sicuro che non sia, che sia stato maltrattato? Spiego tutto. E che è esattamente il caso di Green Hill. Li davano da mangiare, li davano da bere, peccato che non rispettassero l'etologia, i famosi beagle. Cosa succede che nel caso dei macachi di Parma? Io vedo da una risposta del Ministero della Salute, su richiesta appunto di Parma Etica, come stavo dicendo, che la sperimentazione all'Università di Parma, Dipartimento di Neuroscienze, c'è stata solo nel 2017, io avevo chiesto dal 2016 al 2020, solo nel 2017 su due macachi. Da una intervista della LALV, anzi una conferenza stampa di gennaio di quest'anno, ho sentito che i macachi erano 9. Guardo, questi sono gli elementi, guardo un video del TGR Leonardo, e vedo che questi macachi risulterebbero detenuti dentro delle gabbie, non molto grandi, anzi piuttosto piccole. Ah, quindi lei ha visto dei video, dai video del telegiornale ha come dedotto che siano... Zanfolini, le chiederei un po' di sintesi, perché la radio è anche sintesi. Ha fatto, mi perdoni. Non possiamo fare una storia di un quarto d'ora, io tra un minuto la borsa... Vabbè, parli lei. No, è che tra un minuto ho la borsa, lo spazio è di 5-6 minuti, non possiamo fare... Capisci? Sì, vabbè, quindi, secondo me bisogna però tirar via dalla testa i pregiudizi e vedere la legge, perché se uno comincia a dire è giusta la sperimentazione, lascia aperte le porte a qualunque delirio. Invece lo sperimentatore, beh, guardi, come su questo invece è il vero dibattito, se sia giusta o no la sperimentazione animale. È questo il vero dibattito etico su cui confrontarsi, proprio se sia giusto o no. Lei, per esempio, glielo chiedo, lei è contrario alla sperimentazione, se ho capito bene? Lei mi fa un'intervista trascinandomi in un discorso che non è pertinente. Allora, se lei vuole fare demagogia, la facciamo, va bene? Se invece lei vuole ascoltare la realtà delle cose, che credo che sia l'interesse dei suoi ascoltatori, perché non vale la pena influenzare le persone con... Ma che influenzare? Io do la voce a tutti. Ieri avevamo il professor Tamietto che conduce questa sperimentazione. Continua a farmi domande non pertinenti. Sembra che non mi voglia ascoltare. E non va bene, perché non si fa così del diritto di cronaca. Sono basito. È 5 minuti, 6 minuti che ci sta spiegando perché ha fatto questa denuncia. Non la vedo questa polemica. Ma non c'entra la sperimentazione, c'entra che quando non si fa sperimentazione gli animali vanno tenuti secondo la loro etologia. Non perché lo dico io, ma perché lo dice la legge. Io le ho chiesto come lei ha scoperto che, secondo suo parere, non sono trattati bene, e lei mi ha fatto una, devo dire, lunghissima risposta, e per questo dico la sintesi, che ha bruciato tutto il tempo a disposizione, nella quale alla fine ho dedotto che lei ha visto dei servizi di TG Leonardo e da queste immagini ha visto questi macachi in gabbie e quindi ha dedotto, non è che li ha visti personalmente, no? Ha dedotto da queste immagini che entrare. Non sono... ecco, perfetto. Quindi io la domanda, quando le ho chiesto come ha fatto lei a sapere che sono trattati male, se lei mi diceva ho visto un servizio in TV ed erano costretti in gabbie, capisce che in 10 secondi mi diceva la stessa cosa che mi ha detto in 5 minuti. Le sto dicendo, anche perché adesso devo andare a sentire la borsa. Vabbè, senta la borsa, cosa vuol che le dica? Non so se io a me dispiace molto di non aver dato il servizio che lei si aspettava, però mi sembra che fin dall'inizio foste aveste un pregiudizio di fondo. E non è utile alla cronaca il pregiudizio, perché non consente alle persone di farsi l'idea corretta. Perché se io avessi un pregiudizio non le avrei dato voce, se avessi un pregiudizio non l'avrei ospitata, se avessi un pregiudizio non le avrei dato uno spazio per spiegarsi. Se lei ritiene che io abbia un pregiudizio, non so come convincerla del contrario, forse c'è la maniera. Hai un pregiudizio tu nei confronti di Zanforlini, Leonardo? Io no. Ho le mie opinioni, certo, che possono essere contrastanti, ma pregiudizi non ne ho nei confronti di nessuno. Io posso dire che la questione è emersa comunque in modo molto chiaro, cioè al di là della sperimentazione, secondo Zanforlini vanno trattati, anche giustamente dal mio punto di vista, gli animali, secondo la legge, in modo corretto, al di là della sperimentazione. E lui ha fatto questa denuncia dicendo che secondo lui non sono trattati bene. Devo andare, mi scuso in ritardo, alla borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Allora, 10:38 minuti, ma io vorrei chiarire anche se l'avvocato Zanforlini vuole tornare a spiegarci la questione con più sintesi. Io non ho assolutamente nessun problema, è molto interessante, però è molto più interessante il libro Io sono il potere. Ho deciso di leggerti un altro pezzettino, Leonardo, poi attenzione perché avremo la spiegazione definitiva al tuo sogno. Sei pronto? Cosa c'è? Interviene uno psicologo? No, dopo ma vediamo. Lascia stare, lascia perdere. Allora, il primo consiglio dei ministri, leggo da Io sono il potere, confessione di un capo di gabinetto, mentre mia figlia viene qua a rubare il cellulare e si può vedere in video. Va bene. Il primo vero consiglio dei ministri racconta molto della stagione che comincia. Qualcosa nel governo giallo-verde sarebbe andato storto se è capito quel giorno. Il Consiglio dei Ministri è cominciato con 2 ore di ritardo e si sono viste un numero inusitato di facce mai viste, barbe malamente colte, cravatte insopportabilmente rigide, abiti probabilmente confezionati oltre le sponde dell'Oceano Indiano. i capi di gabinetto alla prima esperienza si muovono con inutile frenesia e noi veterani ci occupiamo della prima fondamentale incombenza, come da tradizione, l'elezione di Miss Governo, sommamente deprecabile e altrettanto imprescindibile liturgia maschilista. Sai chi ha vinto all'ultimo, al primo governo Conte? Nel primo governo Conte si è andati direttamente al ballottaggio tra la leghista Stefani e la grillina Barbara Lezzi, sfida a colpi di ricci vaporosi con tanto di tabellone a eliminazione degno della Champions League. Ha vinto la Lezzi, ha vinto la Lezzi, e così avanti. E però quindi, è un libro, fa un po' sorridere, questo anonimo, ma fa anche arrabbiare, no? Questo anonimo capo autore di gabinetto. Capo di gabinetto, è stato capo, sì, di gabinetto in molti governi, a quanto pare di capire. Come no. Io sono il potere, cioè passano tutti, pare che sia un vecchio marpione della politica, capo di gabinetto, da, perché poi vanno ed entrano ed escono, sono come in ogni squadra di governo, o vengono confermati, poi escono un po', poi tornano magari a fare il giudice del TAR, perché sono anche, hanno anche gli altri lavori, no? Poi tornano richiamati da un ministro e ne hanno viste navigando di tante, e le racconta. Ma eccola qui la spiegazione. Mentre un ascoltatore dice il sogno dei gatti che aggrediscono Manera, sono chiaramente i gatti Alessandro Milan e Miriam Lucchetti. Se sono tre, il terzo è sicuramente Alessandra Tedesco, licenziata da Manera. Ma Carla Rocchi ci può spiegare tutto, Carla. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno cari, come state? Bene, ti affido a Leonardo Manera che sogna gatti che insomma defecano davanti, sì, ai suoi occhi. Gatti che non si comportano. L'argomento, sì, è serio. Molto, allora, molto, molto. Molto serio. E ci stanno pure i numeri da giocare all'otto, se Leonardo se li vuole, perché la smorfia è un'altra cosa seria. Allora. Allora, sognare i gatti è un, da sé, insomma, è considerata una come posso dire, un simbolo di liberazione da ansia o stress, e visto il periodo, perfetto, che abbiamo passato, ci sta tutto. No, sognare, ma lui c'è anche la trasmissione, ci ha messo dentro, è stressato. Soprattutto è la combinazione tra il gatto e, con rispetto parlando, quello che il gatto fa. Quindi certo, praticamente, diciamo elegantemente, l'escremento del gatto è considerata una liberazione da uno stato di ansia o di stress, una sorta di guarigione. Il gatto ha una simbologia tutta sua, e potrebbe Leonardo aver avuto una lite con un mondo femminile. Questo c'entra anche Freud, che però era sicuramente allergico al mondo femminile, però io non gli darei. Abbiamo capito che abbiamo capito che c'entra questa sua ansia. Comunque è liberatorio. La cosa divertente è che c'è andando molto all'indietro, Artemidoro, che era uno scrittore, un filosofo greco antico, dava al sogno del gatto un significato di grande positività, proprio un fatto di grande liberazione, cioè chi sognava il gatto faceva una cosa molto positiva, molto positiva, molto positiva per sé. Quindi, in buona sostanza, Leonardo esce da un periodo che certamente è stato pesante per lui come per gli altri, probabilmente si è bisticciato con qualche signora, vista la simbologia del gatto con il femminile, ma tutto il quadro dice che sia in uscita da questo. Se poi si vuole giocare il numero 3, che nella smorfia napoletana è il numero del gatto, che vince, conferma tutta questa tosta dissertazione. Vabbè, Leonardo, sai che la nostra Carla oggi Rocchi, che è presidente dell'EMPA, ha una risposta su tutto, nello specifico, ha maggior ragione. Io oggi vado a giocare 1000 euro sul 3. Beh, adesso magari 1000, vedi un po', ecco. Comincia con Carla, 10, dai. Se non vinco, sappi che ti richiamerò. Se non vinco, è colpa tua. Se richiamare, mandami un piccolo voucher. 1000 euro sul 3. Rendetevi conto, per Leonardo Manera 1000 euro sono come per me te, Carla, 1 euro, 2 euro, cioè, io conto su questo, ecco, se lui gioca e vince, che vi devo dire? Ragazzi, siamo qua, vuol dire che abbiamo azzeccato tutta una filiera importante che va da Artemidoro a Freud, al gatto e alla cacca del gatto, voglio dire, mette arriva tutti Manera, questa roba e l'universo mondo, Però ragazzi, cioè, allora, può una persona non amare a sognare il gatto che ti fa le fusa? Sì. Può Leonardo Manera sognare il gatto che dice no, il gatto che te ma la Leonardo, fa davanti agli occhi? Ma io dico, ma Leonardo, porca una cosa, ma sti gatti gli stanno antipatici a Leonardo? Non lo so. No, no, io ho anche avuto un gatto, ho anche avuto un gatto, non è il mio animale preferito, però non ho niente contro i gatti in sé. Faccio fatica a rapportarmi con i gatti, quello sì, perché siccome li vedo molto e stanno un po' sulle loro, anch'io non voglio disturbarli, quindi è un rapporto complicato, diciamo, ecco. Ma Leonardo, questa un'altra volta che avremo tempo facciamo un discorso sui gatti, credimi, è un universo e secondo me c'è tutto, c'è solo da guadagnare. Comunque corri a giocare all'otto, va, che io mi sento molto confortato da questa... Quindi però, 1500 Carla, noi nel ringraziare Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, per dire appunto che abbiamo talmente pregiudizi nei confronti del settore, che è una delle nostre più care amiche, Carla, abbiamo capito che c'entrano delle tensioni interne che ti sei in qualche modo, di cui vorresti liberarti. E se noi possiamo fare qualcosa per te, caro Leonardo, siamo qua. Leonardo siamo mio, una questione con una signora c'è tensione, c'è un periodo di stress, addirittura c'è, non oso dire la parola perché poi litigate in famiglia, c'è persino la parola adulterio in tutto questo, che Dio ci salvi da questo. No, no, ma vabbè, su ma questo, è la cacca su che questo ci libera, perché la cacca ci libera, purifica da tutto, quindi corri a giocare. Quindi il nostro Leonardo che è venuto qui a raccontarci il sogno, c'è adulterio, problemi con le donne, forse deve cambiare sponda, sicuramente tensione, grande stress, amarezza, ma quella a grappoli come se piovesse e si sa. E poi Leonardo vuoi, ma perché tu il venerdì ti vuoi far così del male? Prima la caldaia rotta, adesso i sogni. Leonardo, guarda, fai una cosa, visto che stai andando al botteghino, giocati pure il numero della cacca, che è il numero 23, può darsi che aumenti. Qual è il numero della cacca? 23. 3 e 23. Carla, 3.000 ti mandiamo un grande abbraccio. Sei contento, Leonardo? Sei preparato un buon weekend anche questa settimana? Sì, notavo che la cacca è sempre una simbologia positiva, ecco. Non si sa perché, la pesti e porta bene, la sogni e ti liberi, riempirò la mia casa di quell'elemento. Va bene, già il pipistrello lo fa col tuo balcone, andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, sono le 10:48 minuti, ci siamo cari ascoltatori per l'ultima parte di Uno Nessuno 100.000, abbiamo sistemato Manera i suoi sogni. È bella questa cosa dei sogni, sai, potremmo veramente fare ogni venerdì l'interpretazione di qualche sogno che ho fatto, sarebbe utile, bello. Sarebbe anche una forma di terapia. Di terapia eviterei di pagare lo psicologo, dal quale non vado. E utilizzerei prodomomia questa trasmissione, in modo finalmente utile. Non sarebbe la prima volta, come ti ricorda tu quel vagone, quella vagonata di prodotti ittici che ti sono arrivati l'altro giorno da Taranto. Lasciamo stare, dai. Va bene. Vai Leonardo, a te il microfono per chiudere. Vediamo se Peter ha una bella base. Allora oggi è venerdì e vorrei concludere questa settimana pregando. Allora, prego, sempre parlando del virus, per quelli che parlano già della seconda ondata del virus, non è ancora finita la prima e già loro per terrorizzarci parlano della seconda ondata che potrebbe arrivare in autunno, prego che almeno per un po' ci lascino respirare. Prego per quei politici che continuano a dire che rifarebbero tutto quello che hanno fatto, sono come Fonzi, l'abbiamo detto che non riusciva mai a dire ho sbagliato, diceva ho sbagliato e si fermava lì. Prego per l'assessore Gallera che qualche giorno fa ha detto che ormai per infettarne uno sano ce ne vogliono due infetti e prego soprattutto per quei due infetti perché se vanno in giro apposta insieme per infettarne uno sano, beh, vuol dire che sono proprio stronzi. Prego per quelli che dicono che niente sarà mai più come prima, l'unica cosa che non sarà mai più come prima sarà la pancia delle persone dopo due mesi di pizze fatte in casa. Prego per i pubblicitari che hanno fatto tutte le pubblicità rassicuranti, buonine, dove sembrava che stare in casa due mesi a cucinare fosse meraviglioso. Prego per quelli che hanno pensato che in questi mesi l'unica causa del virus siano stati i runner e magari andavano a inseguirli coi droni. Prego per quelli che hanno scritto i decreti DPCM, che sono così complicati che a un certo punto uno, piuttosto di leggerli, preferisce prendere il coronavirus e chiuderla lì. Prego che arrivino almeno una metà di tutti i soldi che sono stati promessi da Conte. Anzi, io se fossi in Conte direi che non arriverà nulla, così poi se magari arriva qualcosa uno è più contento. Prego. Per quelli che hanno dovuto passare il lockdown con la famiglia, magari in 50 metri quadri, hanno speso più di Xanax che di cibo. Prego per tutti noi che quando andiamo al supermercato dobbiamo aprire i sacchetti tenendo i guanti, che è una cosa impossibile. Io a chi ci riesce gli darei il Nobel. Prego per tutti quelli che hanno cercato le mascherine a 50 centesimi e non le hanno mai trovate. Io sono stato fortunato e le ho trovate, usate, ma le ho trovate. Prego per quelli che sono così preoccupati che disinfettano la frutta con la candeggina e poi stanno male di stomaco, ma non è il coronavirus, è la candeggina. Prego per quelli che se ti vedono bere un aperitivo con un amico, come è successo a Alessandro Milan, dicono: assassino, stai facendo la movida. Dice: no, sto bevendo un aperitivo. No, sei un assassino, no, cioè, è la movida. E per finire prego per i virologi che sono diventati tanto troppo vanitosi e sono diventati vanitosi, e se vanno avanti così ci ritroveremo a fare i tronisti a uomini e donne. Prego per tutti loro, prego per tutti noi. E anche per questo venerdì siamo arrivati quasi alla quasi, fine. Quasi alla fine. Ma vai, vai Alpino, vai. Come on, stand by. Che versione è questa di Stand By Me? Non so, una versione un po' Jamaican style, non proprio Jamaican style, però insomma, simile. Allora, caro Leonardo, siamo qui. Tra l'altro noi, devo dire, noi andremo in onda fino a fine luglio, fino a luglio. Tu sei contento di questa cosa? Ma io avrei preferito fine giugno, però se tu mi dici perché che bisogna... Perché tu sei un televisivo. Tu sei un televisivo, la TV... Ecco, vorrei fare anche questa ultima polemica, scusate, ma si trasla tutto, si rinvia tutto, c'è stato il coronavirus, ma secondo te è normale che le stagioni televisive finiscano adesso a giugno perché scadono i contratti, cioè i talk show finiscono adesso a giugno? Ma che senso ha? Cioè adesso la gente non va in vacanza... No, originariamente un senso ce l'aveva. Il senso di fermare i programmi standard a giugno era quello di utilizzare l'estate, quindi poi da giugno, luglio, agosto, per sperimentare dei programmi nuovi. E una volta sì, si faceva anche così. Poi dopo adesso però col tempo si è cominciato. Te, le repliche, la signora in giallo, Jessica Fletcher, sì, l'ispettore sì, Derrick, il tenente sì, Colombo. Quindi il tenente Colombo, funziona. A me piace io sempre vedere sempre il tenente Colombo. Io sempre, anch'io, sempre. Che sei già l'assassino, già normalmente col tenente Colombo lo sai già dalla prima puntata perché lo fa vedere subito, ma adesso lo sai ancora già prima anche dalla sigla, sai già questa è la storia. E comunque il migliore lo stesso, sì, il migliore era l'ispettore Derrick, non so se lo Derrick, ricordi, se l'hai mai visto. Beh, certo l'ispettore come... Derrick aveva quelli che confessavano praticamente anche senza indagini, cioè non era una sì, cosa dove era particolarmente incalzato colpevole, alla fine questa arrivava Derrick, sì, lo guardava, lo inceneriva, inceneriva con lo guardava sguardo. E il colpevole confessava, cioè sì, sono stato io, bastava guardarlo. Derrick, cioè, questa guardava... è il tenente Colombo? Questa è la sigla del tenente Colombo? Io non me la ricordo così. No, deve mandare quella dell'ispettore Derrick, che è molto più riconoscibile. Anche sulle strade di San Francisco, ragazzi, cioè sulle strade con un Michael Douglas straordinario. Vabbè, deve chiudere e quindi ogni richiesta di Leonardo Manera viene cassata e bocciata. Allora, niente, buon ispettore Derrick, buon tenente Colombo tra qualche tempo, tra qualche giorno. E quindi il motivo è quello. TV italiana. Il motivo è quello, dico, di sperimentare, ma le sperimentazioni non si fanno più e quindi si potrebbe andare avanti anche fino a lunedì. Ciao ciao.